E capo cantiere è una bella idea, perché non solo perché abbiamo a che fare con un architetto, ma anche perché tutto sommato è proprio un concetto di lavoro in corso, di cantiere che vogliamo costruire proprio per la salute dei nostri ascoltatori, e con l'idea è proprio di dare le competenze necessarie per gestire al meglio la propria salute, partendo da quello di cui parliamo sempre, Nicoletta, il cibo, che sappiamo influenza in mille modi la nostra salute e addirittura proprio come ci sentiamo in termini di energia e di umore. Quindi il capo cantiere mi sta benissimo. Perfetto, allora Valentina, direi, prima di dare inizio ai lavori, facciamo un inventario, si dice così? Sì, dobbiamo fare un inventario dei materiali che ci servono per migliorare sicuramente. Allora, provate a rispondere anche voi da casa. Se siete in sintonia, se vi riconoscete nel profilo di Valentina, seguitela e soprattutto chiamateci 800 24 00 24. I nostri centralini sono a vostra disposizione, come sempre noi vi aspettiamo. Valentina, come ti senti? Mi sento di non essere tornata come prima, quindi pesante. Non sono in forma come prima, vorrei tornare in forma e recuperare un po' questa forma che mi manca ora. Sì, hai anche qualche dolorino? Sì, mal di schiena, anche soffro di mal di testa, probabilmente l'alimentazione non è quella corretta. Come vuoi sentirti? Voglio tornare come prima, recuperare il mio corpo, recuperare il benessere, l'equilibrio e l'armonia che avevo prima. Senti Valentina, l'abbiamo già intuito dalla tua scheda, ma cosa ti spinge a cambiare e al tempo stesso, dato che dobbiamo fare un inventario, che cosa ti frena? Sicuramente mi frena la pigrizia, sì, molto. Quella è tutta un po' un male comune, eh? E mi spinge proprio il desiderio di sentirmi meglio, di recuperare questa forma e questa armonia che mi manca, sì. Dottor Ongaro, sembra che la gravidanza abbia segnato una sorta di spartiacque nella vita di Valentina. Adesso, a distanza di circa 3 anni dal parto, la nostra amica fa i conti con qualche chilo in più. Si sente gonfia, poco tonica, con la schiena dolorante, fa fatica a dormire, come ciliegina sulla torta possiamo aggiungere anche un po' di mal di testa. E insomma, Valentina, dottor Ongaro, racconta la situazione di tante giovani mamme a cui il pupo ha cambiato piacevolmente la vita, ma anche l'organizzazione del loro stile di vita. Quindi, dottor Ongaro, la parola chiave di Valentina quale potrebbe essere? Ma secondo me la parola chiave è recupero. È una parola che ha ripetuto Valentina già spesso. È una parola che riguarda moltissimo le mamme. Chiariamo, è chiaro che la gravidanza è un fattore bellissimo, così come l'allevamento e la crescita dei propri piccoli, però non c'è ombra di dubbio che segna anche, come dicevi te, uno spartiacque, cioè spesso rimangono dei chili di troppo addosso e spesso, un po' per la gravidanza stessa, un po' per l'allattamento e un po' per la difficoltà poi successiva, perché far crescere un bambino è anche una fatica, un impegno in più. Il recupero proprio è quello che manca e quindi molte donne tendono a non vedersi più come erano prima, a sentirsi più stanche, più affaticate, e i chili di troppo che rimangono sicuramente addosso possono essere un punto importante. Tra l'altro, ovviamente anche per il mal di testa ci sarebbe molto da dire sull'influenza di tante cose sul mal di testa, ma certamente l'alimentazione. E in particolare una cosa che a Valentina piace parecchio, che è la cioccolata, stiamoci attenti, perché la cioccolata ricca di tiramina è uno dei principali fattori scatenanti alimentari per il mal di testa. Allora, quindi la parola chiave è recupero. Se questa parola in qualche modo vi tocca da vicino, 800 24 00 24, perché i nostri esperti aiuteranno Valentina, ma anche chi di voi interverrà in trasmissione, ad avere un nuovo rapporto con il cibo, ad usarlo per raggiungere il nostro obiettivo, il recupero. Fa che il cibo sia la tua medicina e che la tua medicina sia il cibo. Ippocrate. Abbiamo anche Ippocrate nella nostra squadra. Dottor Ongaro, in questa frase è racchiusa l'essenza della nutrigenomica. Beh, senza ombra di dubbio, Ippocrate aveva capito molte cose che in parte la medicina moderna ha poi dimenticato. Adesso c'è un grande recupero e la nutrigenomica, che ripetiamolo è questa questo ramo della biologia molecolare che studia l'effetto dei nutrienti sui nostri geni e su tutta quella complessa macchina di attività cellulare che caratterizza la nostra salute, sta rendendo questa frase assolutamente attuale, vera e profonda. Non significa che possiamo curare tutto e tutti solo col cibo, ma significa che in tutti dobbiamo prendere in considerazione l'effetto che il cibo fa sulla salute. Andiamo allora adesso a sentire la giornata alimentare tipo di Valentina. Mio caro architetto, la giornata di Valentina si regge su solide fondamenta: latte, fette biscottate con marmellata, biscotti, oppure tè verde con frutta fresca. A metà mattina, un caffè d'orzo all'anice e un quadratino di cioccolato fondente spezzano il ritmo del cantiere. Il pranzo è progettato per stare comoda e sana: riso o pasta integrali, verdure o legumi. La merenda invece è disegnata a misura di bimbo: crackers, yogurt o pizzette, da mangiare in compagnia di Aurelio. Ai piani alti per la cena, Valentina sta leggera e arreda la sua tavola con pollo o pesce, poca carne e tanta verdura. Valentina, ti riconosci? Sì, mi riconosco. Sei tu? Sei proprio tu. Sono io. Ma allora, dottor Ongaro, vogliamo individuare i responsabili. Che cosa c'è nella dieta di Valentina che marcia contro il suo benessere? C'è un colpevole, una cricca di colpevoli? No, sì, non ce n'è uno singolo. È interessante Valentina perché in qualche modo mescola delle cose molto positive: l'uso dei cereali, l'uso frequente dei cereali integrali, le piacciono i legumi, usa le verdure, con però delle abitudini invece poco salutari, per esempio la partenza molto zuccherina della colazione, l'utilizzo dei biscotti, l'adattamento a gusti, insomma, e ovvi però da contenere dei bambini come quello delle pizzette, e l'uso abbastanza frequente, io immagino a scopo un po' energizzante, della cioccolata che ho menzionato prima, perché avevo ovviamente visto il profilo di Valentina, e insomma la cioccolata può essere anche un fattore scatenante importante per quel sintomo di mal di testa che lei presenta. Insomma, come spesso succede, il diavolo sta nei dettagli, quindi non c'è un singolo colpevole, ma bisogna un po' rivedere alcune delle caratteristiche dell'alimentazione quotidiana di Valentina. Federica ci chiama da Pesaro, 800 24 0024. Benvenuta Federica. Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io praticamente mi identifico perfettamente con Valentina. Sono nella stessa identica situazione. Ecco. Solo che in questo momento il mio bambino è all'asilo, io sto correndo per tentare un po' di recuperare la mia forma fisica. Beh, che però mi sembra Federica mi sembra abbastanza allenata, perché riesce a parlare con noi. È proprio un trucco quello che danno spesso i personal trainer, i medici dello sport, è di correre, di parlare con un amico. Per dottor Ongaro, lei è anche medico dello sport, quindi Federica sembra allenata. Ma sì, infatti sono rimasto colpito che abbia detto che stava correndo. Intanto è divertente l'idea che stia dando l'esempio proprio in prima persona di una bella corsa a metà mattina, e mi pare anche allenata perché sta parlando con noi. Assolutamente. Allora Federica, intanto che corri, continua ad ascoltare i consigli, perché noi in linea abbiamo la dottoressa Reverso, che tradurrà in pratica la teoria del dottor Ongaro. Dottoressa Reverso, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, abbiamo già Valentina e Federica che ci sta seguendo di corsa. Vogliamo contestualizzare un po' la situazione di Valentina, che, come anticipava il dottor Ongaro, è un caso particolarmente interessante. Direi proprio di sì. Allora, iniziamo subito appena alzati. Per Valentina abbiamo pensato di farla iniziare la giornata con dell'acqua naturale e del succo di mirtillo, praticamente il succo di mirtillo, che deve essere un succo puro di mirtillo molto concentrato, senza zucchero, va diluito con un pochino di acqua naturale e alcune gocce di limone. Questo perché? Perché intanto idratiamo, perché Valentina ci ha raccontato che si sente un po' gonfia, quindi ricordiamoci perché per combattere la ritenzione idrica bisogna bere, quindi idratiamo subito il nostro corpo al mattino, ma idratiamolo con il succo puro di mirtillo, perché i mirtilli sono uno dei frutti più ricchi di antiossidanti. Valentina deve recuperare, quindi è anche un pochino stressata, come capita a tutte le mamme di oggi, e quindi dobbiamo subito già dal mattino darle questa sferzata di antiossidanti che le aiutano proprio a eliminare i radicali liberi, che sono i prodotti di scarto del nostro metabolismo, chiamiamoli così, però lo stress ce ne fa produrre un po' di più. Quindi togliamo quelli in eccesso. Valentina, lei lo conosci il succo di mirtillo, sì, tu? Sì, lo conosco, però devo dire, confesso, lo uso poco. Va bene, adesso la dottoressa Reverso ci ha insegnato ad utilizzarlo in un modo nuovo, già al mattino, diluito con acqua e qualche goccia di limone. Si trova facilmente nei supermercati, nei negozi di prodotti naturali, non abbiamo difficoltà, vero dottoressa Reverso? Si trova molto facilmente. Il mirtillo ha anche un altro pregio, che promuove la produzione di collagene, che è il materiale che compone i nostri tessuti. È la proteina più importante, la proteina strutturale più importante per il nostro corpo, forma i cavi molecolari che rinforzano i tessuti. Quindi, se noi vogliamo avere una pelle tonica, anche dei muscoli tonici, noi donne amiamo molto che le nostre rughe vengano il più tardi possibile. Certo. Andiamo di mirtillo. Quindi anche per Federica che sta correndo, mi raccomando, Federica, mirtillo. E quali altri suggerimenti, oltre allo schema che lei ha preparato, naturalmente, come per tutti i nostri concorrenti, che sul nostro sito e da cui i nostri concorrenti possono attingere spunti, ricette, e potete farlo naturalmente anche voi da casa. Dottoressa Reverso? Aggiustiamo un pochettino la colazione. Sì. Mettiamo del tè verde, che anche questo è ricco di antiossidanti, del pane integrale, possibilmente lievitazione naturale, anche questo si trova facilmente. Perché lievitazione naturale? Perché è un tipo di lievitazione che aiuta proprio anche una, chiamiamola così, una predigestione delle fibre, e ci aiuta anche ad assorbire di più i sali minerali. Ricordiamoci che Valentina deve anche aumentare un pochettino l'apporto di magnesio attraverso il cibo. Perché il magnesio è importante? Il magnesio è molto importante perché è un minerale che ha tante funzioni all'interno del nostro organismo. E intanto va a braccetto con il calcio per la formazione del tessuto osseo. Ricordiamoci che il tessuto osseo è un tessuto che ha un turnover elevato. Cosa vuol dire? Si costruisce e si distrugge rapidamente, quindi l'osso deve, il tessuto osseo dobbiamo dargli una mano. Dobbiamo dargli una mano. Il magnesio aiuta, sembra un minerale molto amico della salute delle donne. Donne, ma immagino non solo delle donne, e allora, dato che ha importanti funzioni biochimiche, come ad esempio per il metabolismo degli zuccheri, ma anche per favorire il rilassamento e previene anche in un certo senso il mal di testa, abbiamo pensato, insieme al dottor Ongar e alla dottoressa Reverso, di farlo diventare protagonista del quiz di oggi. Prima di chiedere a Filippo Aureggi di mandare le domande, io vi dico che potete rispondere a questo quiz chiamando l'800 24 0024. Ci sono due libri per voi, per chi di voi indovinerà la risposta corretta e soprattutto l'argomenterà. Il primo è particolarmente dedicato agli ascoltatori che hanno bambini a casa. Il libro è Ludovica e la foresta dei cristalli di zucchero, scritto da Paola Reverso. E l'altro libro che abbiamo pensato di suggerirvi e di farvi arrivare a casa è il libro di Marco Bianco, Le ricette dei magnifici 20. Allora, pronti con il quiz, sentite bene dove si trova il magnesio, poi chiamate subito, ma chiamate naturalmente per avere anche per chiedere un vostro dubbio, un aiuto ai nostri esperti, soprattutto se vi riconoscete nel profilo della nostra Valentina, che è, come parola chiave, a recupero. Quiz. Contiene più magnesio il riso integrale, il cacao o le noci brasiliane? Essere e benessere. A dream is a wish your heart makes when you're fast asleep. In dreams you will lose your heartache. Whatever your dreams will come to. Stiamo stiamo parlando di Valentina, che è in linea con noi. Valentina. Sì, sono qui, eccomi. Ecco, sei... cosa ti sembra? Stiamo... Mi sembra interessante quello che mi stanno dicendo. E sicuramente mi serve prendere appunti per iniziare ad avere delle nuove abitudini. Tu sai che poi la dottoressa Reverso e il dottor Ungaro hanno preparato per te uno schema alimentare, dei suggerimenti con tanto di ricette. Noi, mi sembra però che insieme al dottor Ungaro e alla dottoressa Reverso ti stiamo indirizzando verso il magnesio. Perché, dottor Ungaro? Beh, un po' per l'abbiamo accennato, insomma, il magnesio è assolutamente fondamentale per l'organismo umano, la sua funzione rientra in un numero enorme di reazioni biochimiche e purtroppo è una carenza molto frequente, più frequente di quella del potassio, della verità, su cui ci si concentra più spesso, e il magnesio ha una funzione molto importante che riguarda appunto la il rilassamento muscolare e la possibilità di prevenire il mal di testa, quindi credo che sia molto centrale nella situazione di Valentina. Dottoressa Reverso, abbiamo puntato quindi sul magnesio, ha suggerito a Valentina di iniziare la giornata idratando il suo organismo, acqua, succo di mirtillo e un po' di limone, una buona colazione. Quali sono le altre due chicche che ha preparato per Valentina da inserire nella sua giornata tipo? Breaking news. Il killer di Tolosa, Mohamed Merah, sarebbe morto, lo hanno riferito poco fa fonti della polizia dopo 33 ore di assedio. Maggiori aggiornamenti in GR24. Dottoressa Reverso? Allora, un gruppo di questi sono i germogli. È la stagione giusta, siamo in primavera. Tra l'altro Valentina ama molto le piante, curare le piante rilassa. Allora stimoliamo un po' Valentina, proviamo con i germogli. Si possono anche tranquillamente coltivare in un balcone, coltivare in casa, è semplice, si trovano facilmente nei negozi di alimenti naturali, proprio i semi da germogliare, oppure possiamo noi con dei chicchi di cereali integrali, con dei legumi, fare dei germogli. E sono dei concentrati di energia, quindi dopo i germogli... Sono degli scrigni di energia, sì, scrigni, mi piace di più. Di mentre per altre indicazioni, quale altra chicca ha preparato per Valentina, così allora, noi intanto Valentina... lavoriamo? Valentina intanto ha già un buon uso dei cereali in chicchi, nelle sue ricette troverà magari cereali che si usano meno, come per esempio l'avena, che è uno dei cereali più ricchi di sostanze nutritive. Ricordiamoci che Valentina deve recuperare, quindi in questo momento lei ha bisogno di cibi che le danno vitamine, minerali, antiossidanti e la giusta energia, senza appesantirla troppo. Valentina, ma che cosa mi diventerai? Speriamo. Mamma mia, anche perché dopo questo profilo, noi te l'abbiamo già fatta ascoltare, ma chiedo a Filippo Reggi di rimandarla, la canzone, il brano che gli Alti e Bassi, che sono il nostro gruppo che ci accompagna nel nostro reality radiofonico, hanno scelto per te. Sentiamola. In linea con noi abbiamo Andrea degli Alti e Bassi. Ciao Andrea. Ciao Nicoletta e a tutti gli ascoltatori. Anche oggi una nuova sfida. Ebbene sì. Dai, perché avete scelto questo brano? Valentina desidera fortemente cambiare il suo stile di vita e recuperare la condizione preparto. Adesso rispetto a prima, oltre ai chili di troppo, c'è un bambino, che è una grandissima felicità. Per questa ragione proponiamo la nostra versione dei Sogni son desideri, il titolo in italiano è questo, e tutti lo conosciamo dal cartone animato Cenerentola della Disney. E il brano è contenuto nel medley Disneyade, che noi abbiamo dedicato ai più piccini dal nostro album Medley, e lo cantiamo, come avete sentito, in inglese, cioè nella versione originale. Lo dedichiamo a Valentina e al suo bambino, perché parla di sogni che diventano realtà, e in particolare invita ad avere fiducia nei propri sogni per realizzarli con uno splendente arcobaleno. Questo è il nostro augurio per Valentina. Valentina, grazie. È un uomo da sposare, e che poi sono cinque gli Alti e Bassi, diventa un po' complicato. Sì, infatti. No, beh, devo dire che se nei momenti di difficoltà potrò ascoltarla, ne sarà contento anche mio figlio. Sì. Certo, ma assolutamente. E intanto andiamo a Salvo, che ci chiama da Catania. Salvo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno ai vostri ospiti. Si accomodi che c'è un posticino anche per lei a mangiare con me. Ok, io volevo fare una domanda più che altro. Io ho fortemente scarsa regione idrica, però volevo sapere se un'informazione, qual è il cibo, qual è come fare per giusto per la retenzione idrica. La retenzione idrica. Dottor Ongaro, non è un problema solo di noi donne, eh? Ma in realtà la questione più che altro va vista in un termine differente. Bisogna chiedersi perché c'è ritenzione idrica, perché in linea di massima se il funzionamento dell'organismo è corretto, la ritenzione insomma non dovrebbe esserci, nelle donne più frequente per problemi di tipo ormonali, che nel maschio in realtà non ci sono. Quindi più che le proprietà diuretiche di alcuni alimenti, le tisane, che per carità si possono usare senza grandi problemi o farsi troppe domande, quello che invece è la domanda che invece va fatta è il perché c'è la ritenzione idrica. E quindi al nostro ascoltatore non possiamo dare un alimento magico, perché gli alimenti magici non esistono, ma dottor Ongaro, magari una dieta meno ricca di sale? Ma la dieta meno ricca di sale fa parte di quelle caratteristiche tipiche che indicheremo comunque anche a chi non ha ovviamente la ritenzione idrica. Certo, lo spunto è buono, cioè bisogna chiedersi se per caso stiamo parlando di un soggetto che invece ingerisce una quantità di sale molto elevata. Attenzione soprattutto al sale nascosto negli alimenti processati, che costituisce la percentuale più elevata in assoluto del sale che ingeriamo. Io vi rinnovo l'invito a chiamarci all'800 24 00 24, perché per rispondere al nostro quiz: contiene più magnesio il riso integrale, il cacao, le noci brasiliane? Intanto vado a salutare una grandissima amica che è in linea con noi e che noi abbiamo invitato per sostenere la nostra Valentina. In linea abbiamo Roberta Capua. Ciao Roberta. Ciao Enrico, come va? Ma io bene, ma sono felice perché tu sei sei una persona speciale. Io ho avuto modo di conoscerti e sei proprio come ti si vede, e soprattutto sei una mamma e quindi puoi aiutare le nostre mamme all'ascolto e anche sostenere la nostra Valentina. Assolutamente, sei molto carina a dirmi quello che mi dici e sono contenta di poter dare una mano a Valentina, perché il momento della maternità è un momento molto delicato per una donna e quindi la solidarietà è fondamentale, secondo me. Sì, questo è vero. E anche tu hai attraversato questo momento dopo la maternità, c'è cioè il periodo dell'allattamento, e poi, come Valentina ci racconta, è aumentata di peso, arriva un po' di mal di testa, è difficile conciliare gli impegni del lavoro con quelli di casa e seguire il bambino. Hai una tua ricetta, Roberta? Guarda, in realtà una ricetta vera e propria non esiste, c'è però una cosa da dire, che la maternità cambia la vita e bisogna fare i conti con questo, e bisogna capire e rendersi conto che nulla potrà mai essere come prima, anche il peso corporeo. Il nostro corpo con la gravidanza cambia. A quanti anni ha avuto il bimbo Valentina? Valentina, possiamo... 37. 37. 37, ecco, 37, quindi come io a 39, quindi come me... Siete vicine. Primipara attempata, è il primo figlio ovviamente, no? Sì. Ormai rispondo io perché mi sento un po' la zia di Aurelio. Aspettiamo un attimo che... Scusa Roberta, stai lì, perché noi dobbiamo andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, e poi ritorniamo subito dopo insieme con la cartolina che Roberta Capua ha pensato per la nostra Valentina. Essere e benessere. Siamo tornati insieme, in linea con noi a sostenere la nostra Valentina, Roberta Capua. Roberta, la gravidanza cambia, bisogna prendere le misure con una nuova vita sicuramente ricca sotto tutti i punti di vista, anche di fatica, per carità. Che cosa... Le soddisfazioni ripagheranno Valentina, io ne sono certa. Deve tenere duro, purtroppo a 20 anni si riprende il peso che si aveva prima della gravidanza in 3 mesi, a 37 ci vuole un anno, ma sarà bella come prima e in più avrà questa creatura meravigliosa che le riempirà la vita in una maniera incredibile. Quando sono piccoli sono teneri, sono dolci, sono indifesi, ma quando crescono diventano veramente fantastici. Allora, questa è la cartolina di Roberta Capua, che salutiamo con un abbraccio. Valentina, ti ha ricaricato? Sì, mi ha dato una bella energia, grazie. Allora, grazie Roberta. Quindi i lavori procedono, abbiamo il tuo profilo, abbiamo la tua parola d'ordine, recupero, il profilo alimentare, i consigli dei nostri nutrizionisti, una canzone che gli Alti e Bassi hanno scelto per te. Intanto saluto Andrea e gli do appuntamento per la prossima settimana per una nuova avventura. Grazie Andrea. Saluto, grazie a voi, a settimana prossima. Ciao Nicoletta. Abbiamo la cartolina di Roberta Capua, quindi Valentina, qua bisogna mettersi subito al lavoro e vedrai che la situazione migliorerà rapidamente. E vogliamo andare anche a sentire un nostro ascoltatore che ci chiama dalla provincia di Varese, è Angela. Angela, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Angela, ha una domanda o vuole darci una risposta? Veramente non ho pensato a una domanda. Allora avrà una risposta. Potrei chiedere, per quanto riguarda la colazione del mattino, ho sentito che suggerivate a Valentina di ridurre gli zuccheri. Sì. Io ho sempre saputo che gli zuccheri si possono assumere almeno al mattino. Allora Angela ci dice, ma me li togliete anche la mattina? Dottor Ongaro. Angela, non è proprio così, cioè gli zuccheri sono degli alimenti da utilizzare con grande attenzione, perché il corpo ha bisogno di una stabilità della glicemia e non ha bisogno di alti e bassi. Troppi zuccheri fanno partire la glicemia, la innalzano, ma poi il livello ritorna ad un valore più basso di quello di partenza, quindi è molto meglio non esagerare nemmeno al mattino con gli zuccheri. Quindi ad Angela io suggerisco di andare sul nostro sito e di andare a vedere le colazioni che la dottoressa Reverso ha suggerito ai nostri partecipanti e partecipanti di Mangia con me. E in linea noi abbiamo Giantonio. Ciao Giantonio. Ciao a tutti. Dopo questa prima settimana, le tue prestazioni d'atleta come stanno andando? Devo dire che cominciare a fare la prima colazione ha un po' migliorato la mia distribuzione dei pasti, sicuramente. E le mie prestazioni, forse è un po' troppo presto per dirlo, comunque sto continuando, adesso vediamo, mi sono dato delle scadenze. Senti, dove hai trovato difficoltà e cosa invece ti ha stupito piacevolmente? Allora comincio a dirvi quello che mi ha stupito piacevolmente, sicuramente i semi di lino che impreziosiscono l'insalata in una maniera veramente eccezionale. Poi ho iniziato al pomeriggio a mangiare un frutto, sempre di solito con delle nocciole o delle mandorle, come mi ha consigliato Paola Reverso. Paola Reverso, esatto. E poi, se devo dire, una ricetta che mi è veramente piaciuta è la pasta con le lenticchie. Pasta con le lenticchie, allora ve la suggeriamo, magari se stasera non avete ancora fatto il menù, suggeriamo. C'è qualche cosa che non è andato però, che non ti è piaciuto, Giantonio? Per me alzarsi la mattina è sempre difficile, quindi dovermi alzare una mezz'oretta prima è impegnativo, però insomma l'ho fatto, dai. Chiediamo sempre ai nostri ospiti di Mangia con me di così scatenare un po' la tifoseria, di chiedere ai nostri ascoltatori di supportarli. Che cosa vuoi chiedere ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa? Seguitemi perché? Seguitemi perché spero di dare delle soddisfazioni a me e anche a voi che mi seguite come tifosi, diciamo. Ecco. Dai che puntiamo su di te. Grazie, dottor Ongaro, dottoressa Reverso, siete contenti di Giantonio? Ma io sono contento perché si sente che apprezza il cambiamento e che non è troppo difficile. Sul discorso della sveglia al mattino, purtroppo la soluzione magica non ce l'abbiamo, no. Sono convinto che l'assumere la colazione li farà nel tempo apprezzare anche lo svegliarsi leggermente prima. Dottoressa Reverso, rapidamente. È motivato, è allegro, è un entusiasta, va bene, andiamo avanti. Allora, abbiamo qualche ascoltatore che ancora sta chiamando all'800240024, ma non abbiamo il tempo forse per raccontarvi chi di voi ha dato la risposta esatta. Allora, che cosa abbiamo pensato con Laura Vanossi? Di trasferirci su Facebook. Quindi trasferitevi su Facebook e vi argomenteremo anche la risposta esatta, non posso dirvela, però andate su Facebook e ci sono due libri per voi. E intanto la prossima settimana vi preannuncio che sentiremo il nostro primo concorrente Davide, perché per lui è arrivato un momento molto importante, sarà la quarta settimana, una fase del suo percorso che noi abbiamo pensato di chiamare mettiti alla prova. Infatti sarà lui proprio a fare le ricette e i nostri nutrizionisti commenteranno e cercheranno di capire se fa le scelte giuste. Un'ultima cosa, i nostri esperti sono a vostra disposizione, la dottoressa Reverso domani venerdì dalle 9 alle 10 e il dottor Ongaro martedì 27 dalle 15 alle 16. Vi saluto, grazie a tutti, buona giornata. Essere e benessere.